Assaf, i ranghi serrati. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra. Egli è l'eccelso, il saggio. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O credenti, perché dite quel che non fate? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Presso Allah è grandemente odioso che diciate quel che non fate. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. In verità Allah ama coloro che combattono per la sua causa in ranghi serrati, come fossero un solido edificio. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ricorda quando Mosè disse al suo popolo: O popolo mio, perché mi tormentate nonostante sappiate che sono veramente il messaggero di Allah a voi inviato? Quando poi deviarono, Allah fece deviare i loro cuori. Allah non guida la gente malvagia. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. E quando Gesù, figlio di Maria, disse: O figli di Israele, io sono veramente un messaggero di Allah, a voi inviato per confermare la Torah che mi ha preceduto, e per annunciarvi un messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad. Ma quando questi giunse loro con le prove incontestabili, dissero: Questa è magia evidente. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Chi è più iniquo di colui che inventa menzogne contro Allah, nonostante venga chiamato all'Islam? Allah non guida gli ingiusti. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. vogliono spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah completerà la sua luce a dispetto dei miscredenti. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità, affinché essa prevalga su ogni religione, a dispetto degli associatori. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O voi che credete, volete che vi indichi una transazione che vi salverà da un doloroso castigo? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Credete in Allah e nel suo inviato e lottate con i vostri beni e le vostre persone sulla via di Allah. Ciò è meglio per voi se lo sapeste. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dhalika al-fawzul 'azim. Allah perdonerà i vostri peccati e vi farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli e nelle piacevoli dimore dei giardini di Eden. Ecco il più grande successo. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. E vi darà un'altra cosa che avrete desiderato, l'aiuto di Allah e una rapida vittoria. Danne, o Muhammad, la lieta novella ai credenti. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lilhawariyyina man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. O credenti, siate gli ausiliari di Allah, così come Gesù, figlio di Maria, chiedeva agli apostoli: «Chi sono i miei ausiliari nella causa di Allah?» Risposero gli apostoli: «Noi siamo gli ausiliari di Allah». Una parte dei figli di Israele credette, mentre un'altra parte non credette. Aiutammo coloro che credettero contro il loro nemico, ed essi prevalsero.